Yeah, okay. Twilight Production presenta MG16, Jean Fumé e Bad Tiger. Non è da dove sei, è ciò che sei che conta. Sottrai ciò che dici a ciò che fai, poi trai la tua somma, sai. L'invidia è il sentimento più comune, l'ho detto già nel primo pezzo con voi. Non ho nulla in comune, immune alle false voci su di me, su ciò che faccio, froci. Volate veloci, fuori dal cazzo, minchione. Tappa la bocca, un consiglio. Se non sai come stanno le cose, meglio se stai zitto. Malumore, tappa la boccia, così mi passa quanti scazzi. Non sento più calore, manco dai raggi del sole. Dagli occhi chiamo se sei vero o no, se fai l'indiano no. Tutti lo sanno che c'è scanno nell'iPod. Tu col flow mio e taso nei 90k. Oh zio, impossibile come l'amore senza Dio. Senti come spacco questa traccia sul mic con MG16. Betty, hai capito come va? Per avere una vita perfetta, certa gente li direi, ma cazzo, fatti fatti toi, non i miei. Ricordo le vite, giro come i giostri, come le giostre. In questo beat parliamo di cose nostre, non le vostre. E ammazzerò con le mie canzoni troppo toste. Io non faccio mica pubblicità come le mostre. Noi siamo come siamo, in questo tempo ne sfondiamo. E nei nostri gesti noi crediamo e vado avanti verso la mia strada. Non sogno felici ma neanche tristi. Se lo fischi, giro gira dischi nei miei dischi. Dopo aver bevuto un po' di whisky, troppe cose che ti fanno girare la testa. Non c'è fretta, tutti pronti a prendere la loro fetta. E lunga la strada come una retta che dura all'infinito per lottare per la sopravvivenza. Ma l'indifferenza è brutta, ma non c'è sostanza che la resta. Resta la certezza nella testa, resta la certezza di essere fuori di testa. Tra mare e terra preferisco un cannone d'erba che ti resta. Se ti stressa devi conviverci con la testa, sempre sulla cresta dell'onda. Sento che l'acqua potrebbe essere. Combattere e reagire, Jean Fumé, MG16, Bad Tiger. Tiger.